Allora, Mishnah numero Vav, primo capitolo di Pesachim, siamo arrivati alla sesta Mishnah. Ora la Mishnah sembra che parlerà di qualcosa che non c'entra con Pesach, e lo fa perché vuole esprimere una halakha nella prossima Mishnah, quella successiva a questa, che è invece sì legata a Pesach, ma si basa su questa che sarà qui come un'introduzione. Ci porta fuori tema, ed è anche un tema non facile, perché è il tema della Tumah veTahara, cioè le regole che riguardano la purezza e l'impurità rispetto, in particolare in questo caso, dei cibi, ma anche in generale. Ed è un po' difficile a capire, non perché non ci si arriva, ci si arriva. Il problema è che, come sappiamo, tutto l'aspetto delle regole che riguardano la purezza e l'impurità è un chok, cioè è uno statuto che si prende come sta, cioè non ha una motivazione razionale umana, e quindi le regole che riguardano la Tumah, di cui ci sono regole della Torah e regole che sono decreti dei Chachamim, dei Rabbanan, per far sì che non si arriva al divieto della Torah, eccetera, bisogna un po' studiare la memoria, diciamo, per ricordarle, perché non è che sempre si riesce a seguire esattamente il filo logico, anche se vedremo proprio in questa Mishnah che c'è una certa struttura. In generale bisogna tenere presente che nella Tumah, nell'impurità, ci sono gradazioni, livelli di Tumah, gradi di Tumah. La impurità legata alla morte, Tumat Met, si chiama Avi Avot HaTumah. Avi come padre, Av. Avi Avot HaTumah. L'origine delle origini delle Tumah, cioè il padre dei padri. Che vuol dire? Vuol dire che la cosa o la persona, l'oggetto o la persona che viene in contatto diretto con il morto, diventa a sua volta Av HaTumah, una fonte di Tumah. Quindi il morto stesso è Avi Avot HaTumah, la fonte della Tumah. Ok? Allora abbiamo la prima il primo grado è il morto stesso, Avi Avot HaTumah, e la persona o l'oggetto che viene in contatto con il morto diventa a sua volta, secondo grado, Av HaTumah. Ok? Sono anche altre situazioni dove abbiamo un Av HaTumah. Ora non è il caso di entrare in ogni esempio, però alcuni esempi li abbiamo fatti. Ora, la cosa che viene in contatto con il Av HaTumah, cioè una persona che viene in contatto con la persona che era in contatto con il morto, questa persona si chiama, questo grado si chiama Rishon LaTumah, primo grado dopo la Tumah stessa. Rishon LaTumah. Il Rishon non ha più il potere Tumah sufficiente per rendere impura un'altra persona, ok? Ma ha solamente il potere per rendere impuro del cibo o del liquido, cioè del cibo solido o liquido. Cioè dal terzo grado solo sul cibo. Oh. Questo che si chiama Rishon, che è il terzo grado dalla via Vota Tumah, può trasmettere la Tumah solo a cibo solido o liquido. Quel cibo solido o liquido venuto in contatto con il Rishon LaTumah acquisisce il grado di Sheini LaTumah, secondo grado. Ok? Ora, questo Sheini LaTumah a sua volta può rendere un'altra cosa impura, ma solo in un determinato contesto. Normalmente, se un cibo che è Sheini LaTumah viene in contatto con un altro cibo, quell'altro cibo rimane puro, non diventa impuro. non ha abbastanza forza per trasmettere l'impurità a un altro cibo, a un'altra cosa. Con un'unica eccezione: se quel cibo che viene in contatto con il sheni, la tumà, è un cibo di terumà, cioè il cibo che noi devolviamo ai kohanim e diventa terumà ed acquisisce una certa kedusha, e la terumà è vietato mangiarla in una condizione di impurità e della persona, del kohen stesso o del cibo di terumà, allora in quel caso si allontana ulteriormente dalla tumà, dalla impurità, per non arrivare a, e si fa sì che anche il secondo grado di tumà, che è molto lontano ormai, è molto debole, tra virgolette, come tumà, può rendere impuro un cibo di terumà. Un cibo normale rimane puro, sì. Ma un cibo di tumà rimane, acquisisce considerato tamè, allora... per allontanare. Può rendere impuro solo il cibo di terumà. Ora, questo cibo di terumà che è diventato impuro dal sheni si chiama shelishi, terzo livello, terzo grado di tumà. Cosa? Sì. Terumà non sì. È commestibile. Sì, certo è commestibile. Allora, terumà deve, ecco, solo commestibile. Terumà è il cibo. Esatto. Pensavo che quello che bruciavano. No, aspetta. Come si beve solo i guanini? Sì. La terumà che è diventata impura va bruciata, come il chametz a Pesach. Se è diventata impura va bruciata, se no deve essere mangiata dal Kohen in uno stato di purezza. Ora, il cibo di terumà è diventato shelishi. Si chiama shelishi, esattamente. Il cibo si chiama shelishi, la persona non è terumà. E la persona non la bruciamo se diventa impura, no? Scherzo. Siamo allo shelishi adesso. Sì, ma stiamo parlando del soggetto, dell'oggetto. La terumà è quando tu raccogli dal tuo campo, devi prendere un volume di circa un cinquantesimo e donarlo al Kohen. E quello si chiama terumà. Però risulta che è un cibo. Cibo. Ora, questo shelishi, questo terzo livello, questo terzo grado, di nuovo, come il secondo, non rende altre cose impure. Anche qui però c'è un'eccezione. Se dovesse venire in contatto con un cibo kodesh, kodesh vuol dire che è legato al Bet HaMikdash, cioè è rimasto in frigorifero della carne di un korban, per esempio, che devi mangiare, ma non lo puoi mangiare, non può diventare impuro. Per allontanare ancora di più, questa cosa non deve venire in contatto neanche con il shelishi, neanche con il terzo. E se il terzo di terumà viene in contatto con il kodesh, questo diventa il quarto alla tumà. Solo nel contesto di kodesh. Se dovesse contattare un'altra terumà, quella terumà diventa, rimane pura. O un cibo normale rimane puro. Solo nel contesto del kodesh diventa... quarto livello della tumà. Contesto del codice? Codice è del Bet HaMikdash, Corban. Ah, intendendo quello che è proprio nel sì. Ma il Kohen non lo può mangiare comunque. Io lo aspetto, quello lo hanno acceso da qualcuno. Ok. Ok? Ma va lontano. Erevi questo. Sì. Quattro. Erevi. Erevi. Arba. Arba. Tutti i gradi da Rishon in poi, che sono sotto Av Hatuma, sotto la fonte di Tuma, si chiamano Valad Hatuma. Valad vuol dire figlio, Av, padre, Valad, figlio, cioè prodotto. Non origine, ma il prodotto. Valad Hatuma. E inoltre, Av Hatuma si chiama Tuma Hamura, una Tuma, come dire... rigorosa, grave, diciamo così, e diciamo così, tumà forte, impurità forte, e grave. I derivati, velada tumà, cioè i derivati, velada tumà, si chiamano tumà kalà, una tumà leggera, una impurità leggera, ok? Perché non rendono impuro una persona, mai. Solo partono da rendere impuro dei cibi liquidi o solidi e poi vanno ancora diventando più leggeri finché rendono impuro solo la terumà e poi solo il kodesh e poi niente. Ma fino a che grado? Che diventa... Basta. Fino a qui. Ma no, dopo il corte, dopo il corte, ma una volta acquisita questa impurità non si può togliere in nessun modo? Cioè, non la devi è presa? O c'è la possibilità? Dipende per cosa? Come per un mito, no, facendo un mito, la purità si può togliere? Un oggetto che è diventato impuro bisogna metterlo nel mikve e diventa puro di nuovo, per esempio. Ok, questo è solo come introduzione alla Mishnah. Ora la nostra Mishnah di cosa parla? La nostra Mishnah parla di un caso specifico in cui se io avessi della carne di un korban che è diventato impuro con una tumà hamura, un'impurità forte, cioè per esempio se è stato in contatto diretto con il morto, allora diventa a sua volta avatumà, sì. Quindi una tumà hamura. Ed ho un altro pezzo di carne di un korban che è diventato impuro ma con un'impurità kalà, leggera. Per esempio che un celishi, un terzo di terumà, che era impuro, ha toccato questa carne di kodesh che diventa a sua volta revi, quarto livello di impurità, però è un valada tumà, è un derivato, ed è una tumà kalà, una tumà debole, leggera. Ok? Ora, cosa ci devo fare con queste due carni? Sia quello che è impuro di tumà hamura, che è una tumà grave, una forte impurità, e sia quello che è impuro di una tumà kalà, una leggera impurità, devo comunque bruciarli tutti e due. Non si possono più mangiare. In questo caso non puoi metterlo nel mikve e poi diventa puro. Questo va bruciato. Ok? Allora, la domanda che la Mishnah si pone è: se è permesso bruciare queste due cose insieme? Perché una rende l'altra più impura di quanto lo era prima. Perché il avatumà è grado di impurità più elevato. Ma il fuoco non prima che si vengono eliminati, insieme. Sono in contatto. Stare insieme, prima che sì, bruciano, stanno insieme. Sì. Capito? Sì, però... nel momento in cui stanno a contatto poi ricomincia tutto il processo, no? Esatto. Da avattumà lo può far diventare che sia combustibile, diciamo così, che bruci c'è il contatto. È quello che è infatti, ma come non l'ha detto? Allora adesso vediamo la Mishnah stessa. Non l'ha detto. Signori, questa è stata l'introduzione alla Mishnah. Ora guardate il testo, seguite bene, con attenzione. E leggiamo la Mishnah stessa. La Mishnah Vav del capitolo Aleph, sesta Mishnah del primo capitolo di Pesachim. La Mishnah dice così. Rabbi Hanina, maestro Rabbi Hanina, e ci dice anche il suo titolo, Segan HaKohanim. Rabbi Hanina era, Segan letteralmente vuol dire l'assistente o il vice del Kohen Gadol. Se vi ricordate nel trattato di Yomah abbiamo studiato che il Kohen Gadol aveva un vice Kohen Gadol, che se il Kohen Gadol stesso dovesse in qualche maniera diventare impuro prima di o durante Kippur e non poter fare il suo servizio di Kippur, lo portava a termine il Segan, il vice Kohen Gadol diventava Kohen Gadol. Allora Rabbi Hanina era un vice Kohen Gadol e lui insegnò la seguente cosa. Mimehem shel Kohanim, da sempre, Mimehem dai loro giorni letteralmente, cioè da sempre i Kohanim, l'onimneu, non hanno evitato, milisrof et abbassar, non hanno evitato di bruciare della carne, che appunto shenitma, che è diventata impura, bivelad hatuma, da un derivato dalla tuma, cioè una impurità più leggera, per esempio che è, la Gemara spiega, un celishi, un terzo livello di impurità. Ima basar shenitma be'avatuma. Non hanno evitato di bruciare quella carne con una carne che invece è stata resa impura da un avatuma, da un capo, da una fonte di tumà, e quindi diventa, cosa abbiamo detto? Quello che viene in contatto con il avatuma diventa rishon latuma. Quindi primo livello con terzo livello, per esempio, non hanno evitato di bruciare le due insieme se dovessero essere diventate impure. Afalpi, nonostante il fatto che shemosifin tuma al tumato, che facendoli venire in contatto l'uno con l'altro, si aggiunge impurità all'impurità che già ha, perché dal shelishi diventa sheni, perché tocca il rishon, giusto? Ok. Cioè il terzo grado di tumà assume ora il secondo grado perché è venuto in contatto con il primo grado, con la carne che era più impura, tra virgolette, che era più gravemente impura perché era stata resa impura dal av hatumà. Ok? Ora, i Kohanim non hanno fatto attenzione a questa cosa, hanno bruciato insieme, in esempio, questi due pezzi di carne, perché visto che comunque entrambe sono impure e comunque stanno per essere consumate dal fuoco, allora non dobbiamo essere attenti a questa gradatura in più che assume di Tumà in quel momento. Perché bisogna pensare a questo? Perché normalmente bisogna fare attenzione che la carne Kodesh non diventi impura, cioè da uno stato di purezza non assuma uno stato di impurità. La domanda è se questa attenzione bisogna farla anche per uno stato di purità, di impurità maggiore rispetto a quello che già ha assunto. Per ciò che riguarda una carne di Kodesh pura, è proprio vietato farla diventare impura. La domanda è se questo divieto lo si allarga anche al rendere più, tra virgolette, impuro quello che già è un po', tra virgolette, di nuovo impuro. E da questa testimonianza di Rabbi Hanina, noi possiamo capire che non c'è questo problema. Nel momento in cui stiamo per bruciarlo, ovviamente, non siamo obbligati a fare attenzione a questa cosa. Bravo, una domanda. Sì? Ma solamente nel contesto del Kodesh? Che cosa? In generale? O anche fuori? E certo che fuori anche. Nel contesto del Kodesh c'è un divieto di rendere impuro la cosa. Ok. Fuori dal Kodesh non c'è questo divieto. Se una persona è in uno stato di impurità, non è che deve stare a digiuno. Può mangiare anche se il cibo che lui tocca diventa impuro, non c'è nessun divieto. Solo c'è l'accorgimento di sapere se è puro o impuro. Ma non c'è nessun divieto. Invece nel mondo del Kodesh, nel mondo della Terumah, come abbiamo già visto, alcune cose è vietato portarle ad uno stato di impurità. Allora la domanda della Mishnah è: se già è in uno stato di impurità, ma leggero, se è possibile aumentare, se degradare ancora. Degradare ancora, nel caso in cui è per bruciarlo. Già impuro. Tanto ormai come dire, già sì. Sì, no, perché infatti è proprio l'atto di fare un ulteriore, esatto. È sbagliato proprio la situazione. L'atto di peggiorare, esatto, la situazione, oh, in un luogo. Però, attenzione, questo non è una regola generale, è una regola che si applica nel momento in cui stiamo per eliminare, per bruciare questo cibo. Normalmente se non stiamo per, allora no. Sì? Per morto si intende una persona morta o qualsiasi animale? Io intendevo una persona, però non è solo nel caso di una persona, ma non è neanche nel caso di ogni animale. C'è un concetto di sherez. Sherez è un avatuma, sherez è certi tipi di insetti. Rientrano, ci sono trattati interi su questo, non è adesso. Ok, sì, sì. La domanda così non c'entra niente. Qual è la domanda? Se tanto uno prende la pasticca medicinale che c'è dentro il cavezzo, come fa? Ok, affrontiamo questa domanda tra un po'. Un'ottima domanda. Zach. Però procediamo un attimo alla Mishnah. Rabbi Hosif, Rabbi Akiva. Aggiunse Rabbi Akiva. non è un termine che troviamo spesso nella Mishnah. Spesso vediamo uno dice così e un altro dice così. Qui la Mishnah dice Hosif Rabbi Akiva, aggiunse Rabbi Akiva alle parole di Rabbi Hanina Segan HaKohanim e disse, non solo, cosa vuol dire aggiunse? Non solo questo, ma anche il seguente. Non apre una discussione, quindi. Esatto. Disse Rabbi Akiva inoltre, Mimehem Shel Kohanim, da sempre i Kohanim lo nimneu mile hadlik et hashemen shenifsal bitevul yom. Non hanno evitato di fare la seguente cosa. Prima di tutto, cos'è il Tevul Yom? Tevul Yom è una persona, ci sono in alcune situazioni per diventare puro di nuovo, che bisogna fare il mikveh la mattina, ma per assumere uno status di purezza totale bisogna aspettare che tramonti il sole. Al momento che tramonta il sole, la persona assume di nuovo la tahara, la purezza. Allora, Tevul Yom vuol dire colui che è Tavul, Tevilah, esattamente, immerso del giorno. Immerso del giorno vuol dire l'immersione l'ha fatta, ma deve attendere che passa il giorno, che è un grado molto light, molto leggero di Tumah, perché è quasi come ha già assunto la purezza, ma non totale. Deve ancora aspettare il tramonto. Che livello di Tumah ha il Tevul Yom? Scusate. Tevul Yom è considerato un livello di Sheini, la Tumah. Vuol dire il derivato del derivato. Il Rishon è quello che è in contatto con il Av, il Sheini è quello che è in contatto con il Rishon. Il Tevul Yom è considerato su un livello di grado di Sheini, secondo alla Tumah. Ok? Quindi un grado molto leggero. Il problema è che per Tumah, per la Terumah, può rendere impuro un cibo o un solido o un liquido di Terumah. Allora, se questo Tevul Yom, che è considerato un Sheni, viene in contatto con un olio di Terumah, Shemen, olio, quel olio diventa che cosa? Shelishi, giusto? Abbiamo detto Shelishi, le Terumah, certo. Diventa Shelishi. Cosa bisogna farci? In teoria bisognerebbe bruciare una terumah che è diventata impura, però c'è una regola particolare che riguarda l'olio di terumah che è diventato impuro, che è vietato alimentarsi con quell'olio, come nel caso di un cibo di terumah che diventa impuro, il Kohen non lo può mangiare, lo deve bruciare. Ma l'olio, visto che si può usare per un'altra cosa, si può usare per illuminare, combustibile, per illuminare. Allora, visto che è vietato solo mangiarlo, l'olio di terumah impuro, ma non è vietato trarre un altro tipo di beneficio come la luce, allora è permesso illuminare. Ora, ascoltate bene il caso che dice Rabbi Akiva. Rabbi Akiva dice, non hanno mai evitato di prendere, per esempio, l'olio di terumah impura, un livello leggero, terzo, Shelishi la Tumah, e mettere quest'olio dentro una candela. Sapete cos'è la candela antica? Quella sì. Di coccio. Si mette l'olio dentro, poi si mette lo stoppino dall'altra parte. Ok, questo si chiama ner, in ebraico originale ner è il contenitore che normalmente è di coccio che contiene l'olio. Allora, mettere questo olio benner in un contenitore, in una candela Shenitma, che a sua volta era resa impura per un contatto con Tememet, con un Av HaTumah, una fonte, un'origine, Tememet, ok? È permesso mettere quell'olio dentro questo contenitore, anche se l'olio ora diventa di una gradatura di Tumah più importante, perché prima era terzo, adesso diventa primo. Perché quello è Av HaTumah. afalpi shemosifin tumal tumato, nonostante si aggiunga, si faccia diventare più intensa la tumà della tumà già presente, rispetto alla tumà già presente, perché prima, come dicevo, era shelishi, ora diventa rishon, e Rabbi Akiva aggiunge rispetto a quanto dice Rabbi Hanina, perché Rabbi Hanina diceva che la carne che era shelishi diventa sheni, giusto? Sì, sì. Qua dice addirittura che l'olio diventa da terzo, diventa rishon. E comunque non hanno evitato questo, perché visto che comunque era già considerato tamè, impuro, e quindi non è che diventa peggio il grado, ma tumà rimane, era tumà e rimane tumà, e quindi i Kohanim erano dell'opinione che si poteva anche aggiungere volutamente al grado di tumà, perché ormai era già tamè. Piccola parentesi, quando abbiamo parlato del contenitore, del ner, che normalmente è di coccio, in questo caso la Gemara dice che si parla di uno che è di metallo. Sì, perché il coccio non si può... Perché il metallo assume impurità come il morto stesso, come avatuma. Avatuma. A differenza del coccio. Ma il coccio non è... Perché è isolante. Il metallo trasmette. Può essere. No, non è... Forse per questo. Perché parla di... Il coccio è sobrio. Qui volevo arrivare alla precisazione. Da Pesach prendiamo pure la perché il coccio diventa impuro, ma non avatumà. Non diventa fonte di impurità, diventa rishon. È chiaro che assorbe, non trasmette forse. Ah, io pensavo che era un discorso di cacerizzazione. Come? Penso sia per questo. Per questo fa la precisazione. Io pensavo che fosse una cosa di cacerizzazione. Ora, nella prossima Mishnah vedremo come si lega questo a Pesach. Siamo nel trattato comunque di Pesachim. Cosa c'entra con Pesach? Scusa. Sì, sì, sì. Quindi la precisazione è sempre, tanto ormai è impuro, la precisazione di Rabbi Akiva rispetto a Hanina, Rabbi Hanina, sì, è che impuro per impuro non c'è problema ad aggiungere impurità, qui parla addirittura di una degradazione ancora maggiore. Ancora maggiore, vero. Cioè, dal terzo, sì, al primo. Non è necessariamente da applicare ad ogni situazione, no, però ha fatto un esempio in cui vediamo, grazie mille, che appunto il far era contagiare... carne con carne, qui addirittura un olio usato anche per un'altra cosa, degrada ancora di più dal terzo al secondo, addirittura al primo, va bene uguale. Cioè, esatto. Esattamente, questa è l'aggiunta che Rabbi Akiva anche un altro uso. Esprime rispetto a quanto diceva. Sì, esattamente, e giustamente come dici tu, che non è solamente per bruciarlo, cioè per eliminarlo, ma anche per trarre un beneficio, perché qui stiamo parlando di utilizzarlo per illuminazione, non solamente per bruciarlo, per eliminarlo. Quindi sta indicando un grande alleggerimento, diciamo, alachico rispetto a quanto ha detto Rabbi Hanina Segana Kohanim. Ma quando si intende l'olio? Ah, prego. Questo utilizzo di questo olio, a parte l'illuminazione, serviva anche, può servire, a ungere le persone, perché all'epoca si ungevano con l'olio, o no? William, hai fatto una ottima osservazione, che la Mishnah ne parla nel trattato che parla della purezza e l'impurità di queste cose. Adesso però torniamo a Pesach. A me era simile, volevo se poteva essere utilizzato solamente per l'illuminazione esterna del Beit HaMikdash, no. Non anche quella interna. No, interna no. Stiamo parlando di non del Beit HaMikdash, anche in una casa di un Kohen. Ah, ok. No. Vai via. Ciao Tony. Zach, Tony. Signori, prossima Mishnah. Mishnah Zain. La Mishnah dice: Amar Rabbi Meir, disse Rabbi Meir, in base a quanto abbiamo visto nella Mishnah precedente, mi divrehem, dalle loro parole, quelle di Rabbi Hanina, Segan HaKohanim, e quelle di Rabbi Akiva, la Madnu, dalle loro parole abbiamo imparato, e possiamo imparare, Shesorfin terumate horaimatemea ba Pesach, che quando viene la vigilia di Pesach e dobbiamo eliminare il chametz, e tra questo chametz ci sono dei cibi di terumah che assumono uno status di kodesh e non si possono bruciare o eliminare così, semplicemente, solo nel caso in cui è arrivato l'orario in cui bisogna bruciare il chametz. Allora, nonostante che la terumah di chametz, che è pura, non in uno stato di impurità, ma pura, e ancora è permesso mangiarla, come abbiamo visto nelle Mishneiot precedenti, i Chachamim hanno allungato un po' l'orario di divieto di mangiare chametz, giusto? Quindi, all'inizio della sesta ora, in teoria, sarebbe ancora permesso mangiare, ma i Chachamim hanno allungato l'orario e hanno detto che non si può, che bisogna già iniziare a bruciare il chametz. Allora, se io brucio in quell'orario la terumah pura insieme alla terumah impura, rendo impura la terumah che era fino a questo momento pura, perché metto in contatto con la terumah che è già impura, in un orario in cui è solo vietato dai maestri il chametz, non è vietato dalla Torah. Quindi in teoria forse ancora non lo potrei fare per la terumah. Mm. Questo è il punto. Dice Rabbi Meir, dalle parole della Mishnah precedente di Rabbi Hanina e Rabbi Akiva, possiamo capire che è permesso in questo orario già bruciare la terumah pura con quella impura, nonostante diventasse impura anche questa, nella stessa maniera che l'olio può diventare più impuro dall'impurità che era prima e la carne di Kodesh può diventare più impura, tra virgolette, di quanto era prima. Allora qui subentra la discussione. Amarlo Rabbi Yose, disse Rabbi Yose a Rabbi Meir, Eina hi hamida, non ha senso quello che stai dicendo. Non è una misura, cioè un ragionamento corretto. Perché? Perché loro stavano parlando, sia Rabbi Hanina che Rabbi Akiva, di elementi che già erano comunque considerati temeim, impuri. Giusto? E quindi il contatto con l'altro elemento di impurità maggiore era un aumento del grado di tumà, ma non un cambiamento dello status da puro a impuro. Mentre invece, nel nostro caso, si tratta di un cambiamento dello status, che dalla terumah pura diventa terumah impura, e questo è già diverso. Non possiamo, dice lui, Rabbi Yose, imparare dalle parole di Rabbi Hanina e Rabbi Akiva che è permesso rendere impuro qualcosa che prima era puro, come Rabbi Meir vorrebbe dire. Scusate. Ok. Umodim Rabbi Eliezer e Rabbi Yoshua ammettono, sono d'accordo, sia Rabbi Eliezer e Rabbi Yoshua, questo è sempre Rabbi Yose che ce lo sta dicendo, che Rabbi Eliezer e Rabbi Yoshua, che più avanti vedremo tra pochi minuti, che discutono su una cosa, ma dice sono d'accordo, se sorfin zoleatzma ve zoleatzma, nonostante l'orario è un orario aggiunto dai maestri, già si brucia non solo il cibo normale chametz, ma anche il cibo di terumah che è chametz, però zole atzma ve zole atzma, quella pura la si brucia da una parte, quella impura la si brucia da un'altra parte, proprio per evitare il contatto che quella impura diventa, che quella impura renda impura anche quell'altra pura terumah. E quindi esattamente il contrario di quanto ha detto Rabbi Meir, che in realtà non è permesso in quell'orario bruciare la terumah che è ancora rimasta pura con la terumah che è già diventata impura, perché la si fa diventare impura e questo è vietato. Ok? Al man nechleku, Qual era invece la discussione tra Rabbi Eliezer e Rabbi Yoshua? Perché lui dice, loro sono d'accordo, vuol dire tra di loro sono d'accordo. Qual è la cosa invece sulla quale non sono d'accordo? L'onechleku, almanechleku, su che cosa invece discutevano? Discutevano al hateluya, riguardo alla tuma, alla teruma, il cibo di teruma, che è in sospeso, teluya, talui, è in sospeso. Cosa vuol dire in sospeso? Che è dubbio se è diventato impuro o meno. Beh, può essere un caso in cui la teruma ci sia un dubbio riguardo lo suo, il suo status. Allora, se è in dubbio, oppure vea la temea, oppure se è uno, una teruma che è davvero sicuramente impura, allora su questo discutono Rabbi Eliezer e Rabbi Yehoshua. Rabbi Eliezer omer tisarev zol atzma vzol atzma, cioè abbiamo da una parte una teruma che è impura, da un'altra una teruma che è dubbio, in sospeso, forse è impura. Rabbi Eliezer dice, nonostante fosse un dubbio che questa anche sia impura, comunque non si brucia con quella pura, perché con quella impura, scusatemi, perché forse non è impura e la facciamo diventare impura bruciandola con quella impura. Di conseguenza, Rabbi Eliezer Omer tisaref zole atzma ve zole atzma. Questa deve essere bruciata di per sé e questa deve essere bruciata da sé. Comunque devono essere bruciati tutti e due. Sì, certo, perché è quasi Pesach e questo è Chametz. Rabbi Yoshua Omer shtehen keachat. Rabbi Yoshua dice no, nel caso del dubbio possiamo essere meno rigorosi e fare bruciare insieme quella impura e quella che sta in sospeso. Visto che c'è un safek tuma, c'è un dubbio di impurità, non dobbiamo più stare così attenti e possiamo bruciarlo insieme con quella impura. Valutazione questa. La domanda è, abbiamo detto, in questo caso abbiamo detto, Rabbi Eliezer e Rabbi Yoshua non discutono riguardo una terumà pura e una terumà impura e sono entrambi d'accordo che bisogna bruciarli separatamente. Discutono invece riguardo il caso della terumà impura e la terumà che è sospeso in dubbio. Rabbi Eliezer dice separatamente, Rabbi Yoshua dice anche insieme. Una volta che è in dubbio puoi metterlo insieme alla tuma, alla terumà impura e bruciarli insieme. Ma non abbiamo detto nella Mishnah il caso contrario, cioè quello che è in dubbio e quello che invece è puro. È permesso bruciarli insieme quando arriva l'orario di Pesach o no? Quello che abbiamo visto adesso, detto no. No. Noi abbiamo visto il caso del dubbio, uno è impuro e uno è dubbio. Rabbi Eliezer dice separatamente bruciare e Rabbi Yoshua dice anche insieme, va bene. Cosa è il din? Qual è la halakha se invece uno è puro e l'altro è sempre in dubbio? È permesso mettere in contatto quello puro con quello che forse è in dubbio di impurità? La Gemara spiega che anche su questo non discutono e sono d'accordo che si può bruciare insieme. Perché visto che non abbiamo quello che si chiama una chazakah, cioè una certezza di tumà o una quasi certezza, allora non è vietato che ci sia il contatto nel momento della bruciatura, chiaramente, tra la terumà pura e la terumà che in dubbio forse è impura e si brucia insieme. Quindi non è considerato come rendere impuro appositamente la terumà. Seguiamo Rabbi Yoshua. Quindi seguiamo Rabbi Yoshua alla fine. Perché? Perché Rabbi Yoshua ha detto che quello che invece aveva dato la possibilità di poterli bruciare insieme era più accomodante. Per quella impura e quella pura? Quella impura e quella dubbio? Lui era... lui è, come sai che seguiamo Rabbi Yoshua? Perché alla fine è detto che invece per Rabbi Yoshua Omer... Shtehen keachat. C'è una discussione tra Rabbi Eliezer e Rabbi Yoshua. Alla fine... Sì? Quale si viene seguita? Non lo so. Ah. No, nel senso... Credo che la discussione. No, no, è probabile che la halakha segua Rabbi Yoshua, però la mia domanda è come sei arrivato tu a questa conclusione? Perché se nel modo inverso, sì, invece si possono bruciare insieme, logicamente non ha senso che, cioè, se una cosa è pura e l'altra è dubbia, si possono bruciare. Mentre se l'altra è impura e l'altra è dubbia, no, se la cosa è pura e l'altra è dubbia, c'è discussione. Invece su quella impura e quella no, sull'impura no, e la dubbia c'è discussione. Dubbia c'è discussione, invece sulla pura e la dubbia, non c'è discussione. Per sì. Logica, allora si potrebbe anche quell'altra, non c'è più discussione e si potrebbe pure quello, ecco perché è arrivato a quella conclusione. È diverso. Sì, sì, è diverso, ovviamente. È diverso perché nel caso della presenza di quella impura, cioè, la impurità è certa. Allora è diverso. Non è da qui che si deriva che Rabbi Yoshua, che la halakha segue Rabbi Yoshua. No, pensavo che si era accomodati. Ok, concludiamo qui. Abbiamo concluso il primo capitolo di Pesachim.